Avventurieri, le voci che sentite non sono sogni, ma ricordi. Questo monastero fu un tempo scuola di sapere, ma venne abbandonato. Eppure le anime dei maestri non trovano pace, vagano, tormentate, alla ricerca di chi possa ancora ascoltarle. Per poter dormire dovrete rispondere ai loro enigmi.